sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Melog, cronache meridiane, di Gianluca Nicoletti. E lui com'è? Educato, intenso, intelligente. Un po' mi ha imbarazzata. Vorrei sapere di più su di lei. Non c'è molto da sapere su di me. Insomma, mi guardi. La guardo. Voi direte che c'entra l'intenso dialogo fra Mr. Grey e la sua probabile vittima, che firmerà un contratto per farsi staffilare con piacere sulle natiche, che in fondo è la versione cinematografica di cui più si parla in questi giorni, delle 50 sfumature di grigio, che cade proprio in occasione della festa di San Valentino. Ma è un San Valentino fu infarcito di gadget sadomaso, come in questa ultima versione. Vendono l'orsetto Teddy vestito da Mr. Grey con il frustino e la mascherina, vendono manette, staffili, oggetti di contenzione. Sembra che i fidanzati d'Italia non vedano l'ora di farsi del male e godere a vicenda. Ma la vicenda è stata relegata in un'aura piuttosto sospetta, perlomeno da alcune informazioni di stampa che hanno rimbalzato anche in rete tutto ieri. Nel cinema parrocchiale di Varazze, dedicato a Don Bosco, cinema dei Salesiani, era stato programmato, come in tante altre sale d'Italia, il film delle 50 sfumature di grigio per la notte di San Valentino. Anche i fidanzati di Varazze avrebbero potuto infarcire la loro storia d'amore di belle staffilate sulle natiche, ispirandosi nel cinemino dei Salesiani, che normalmente di ben altre cose è, diciamo, portatore. I cittadini di Varazze si sono indignati e quindi hanno scritto lettere, mandato messaggi, manifestato: mai sarà contaminata la nostra migliore gioventù nel giorno dedicato alla consacrazione del loro amore di fidanzati con questo filmaccio. Tanto che il responsabile del cinemino dei preti di Varazze è stato cinemateatro. Cinemino lo dico perché è un'immagine romantica, è un fantastico cinemateatro, si fanno grandissime cose. È stato costretto a togliere dalla programmazione il film delle 50 sfumature di grigio, probabilmente anche dovendo pagare delle penali al distributore, perché così era stato stabilito. Come la vedete voi questa vicenda? Siete d'accordo con le famiglie di Varazze che il giorno di San Valentino non può essere, non possa essere profanato, soprattutto nel luogo classico dell'educazione della gioventù, della contenzione dai desideri carnali, che è l'oratorio dei Salesiani, che io ho frequentato? L'oratorio dei Salesiani aveva una regola: fate giocare i ragazzi tanto a basket, a pallone, a pallacanestro, fateli correre, fateli sfogare più che possibile, così saranno belli stanchi, eviteranno di danneggiarsi con le loro stesse mani in atti innominabili che possono provocare un calo rapido delle diottrie. Tutta la mia educazione salesiana è stata infarcita con preti che mi raccontavano di terribili episodi che accadevano a loro amici parrocchiani, che andavano da loro dicendo: padre, mi sono sposato, sono diventato improvvisamente impotente, perché figlio mio, quante cartucce hai sparato da solo? Quasi 100, padre. Ogni uomo a disposizione 100 cartucce. Sulle 100 cartucce è stata costruita tutta la mia educazione sentimentale. Il timore di sparare a vuoto le cartucce non era avuto più da sparare con la mia legittima consorte. Oggi anch'io per primo dico sì, forse hanno ragione i signori di Varazze, oppure la visione del mio pubblico è molto più aperta. Anche nel cinema dei Salesiani può essere proiettato il lussurioso lubrico 20-50 sfumature di grigio, che quelli che hanno visto hanno detto che la più grande istigazione alla castità che possa essere mai stata passata per un cinema. 800240024. Piacere, Anastasia Stella. A cosa deve il suo... A cosa devo il mio successo? Alcune persone dicono che sono senza cuore. Perché dicono questo? Perché mi conoscono bene. Perché ho la sensazione che non sia vero. Ammetterlo, è incredibilmente sexy. Di sicuro, se ti affascina quel genere. Il genere di uomo sexy. Ho avuto un inizio difficile nella vita. Non mi interessano le storie d'amore. Benvenuta nel mio mondo. E partono poi i colpi di frustino che fanno gemere di gioia questa signora e hanno contaminato in un nuovo sogno erotico la moltitudine delle donne del mondo. Gianni Wei, buongiorno. Buongiorno a voi. Gianni Wei, il direttore artistico del Cinema Teatro Don Bosco di Varazze, e questa mattina è stato subissato a telefonate di tanti colleghi che vogliono saperne di più, ma la notizia, devo dire, da come è stata data, merita comunque interesse e approfondimento. Ci racconta come esattamente sono andate le cose? Innanzitutto, il Cinema Teatro Don Bosco non è un cinema parrocchiale soltanto, fate di tutto. Ma guarda, non è esattamente, cioè, io, tu hai fatto un'introduzione molto colorita di quello che sono i salesiani. Io sono cresciuto dai salesiani e le cose che hai detto a te, sinceramente, a me non me le hanno mai dette, forse perché facevo Don Bosco ritorna tra giovani e cor, come continua quello è il nostro inno. Ti chiamano Frementi? Senti, di gioia, ascolta, d'amore, non sai manco l'inno, non conosci Salesiano? No, questo lo so, ci mancherebbe. No, dato che ti sento e non ti sento. No, dicevo, hai fatto un'introduzione molto colorita. Indipendentemente da ciò, la storia è una storia di non soltanto varazzina, prima di tutto, ma è una storia a livello nazionale. Cioè, le lettere non sono arrivate solo a noi a Varazze. È che io forse improvvidamente ho fatto, per far presente ai nostri cittadini che non avremmo più fatto la programmazione, ho avuto la brillante idea di metterlo su Facebook. Sono diventato l'uomo più ricercato d'Italia. Neanche Rina forse ero. Ma qual è il tuo punto di vista? Sei d'accordo con i censori oppure? Assolutamente no, è chiaro, assolutamente no, perché abbiamo fatto film ben peggiori nel nostro cinema. Ma non c'è più questa regola salesiana. Noi facciamo vedere ai miei tempi soltanto i film di Ciccio e Franco e coprivano la cinepresa quando i due sanculotti baciavano una signorina. Oggi è cambiato. Ragazzi, ma siamo nel 2015. Se quattro cittadini, diciamo, un po' bigotti, vogliono far passare la città di Varazze come una città che non è all'avanguardia, si sbagliano. Cioè, noi abbiamo fatto film peggiori. Però hanno vinto loro, scusami, hanno vinto loro, perché sì, il film non sarà trasmesso, non sarà proiettato. Ma ti dico, loro hanno vinto. Che cosa hanno vinto? Cioè, non trovo questa. Che ne so, non facciamo il diavolo film. Non passerà più per il cinema di Varazze, questo non lo so, certo. Penseranno questo. Ma guarda, questi signori hanno letto molti giornali in questi giorni. La pubblicità di questo film è stata gigantesca sul fatto del sesso, dei frustini e delle cose. Di conseguenza qualcheduno ha pensato bene di scrivere, di telefonare anche a Roma, cioè, hanno telefonato a tutte le cariche più alte dei salesiani, e quindi i salesiani hanno imposto di non fare il film a tutte le sale. Ma il film, cioè, è vietato, è che... 14 anni mi sembra, vietato il film 14... è vietato ai 14 anni. L'ACEC, Associazione Cattolica Esercente Cinema, lo dà come visibile. Adulti con riserva, cosa mette? Adulti con riserva mi sembra. No, mette vietate ai minori di 14 anni. Sì. E poi film futile. Ma diciamo la verità, è un film, dimmi, quelli che l'hanno detto, amici di degna fiducia, mi hanno detto che non farebbe attizzare normale nemmeno un ergastolano nell'Isola del Diavolo. No, ma assolutamente no. Ma guarda, è veramente un film normalissimo, cioè ne abbiamo fatto di peggio. C'è molto più sesso nelle processioni, nei santuari, negli autobus quando si canta, non lo so, cose del genere. Sei terribile tu, eh? No, beh, sai, conosco la materia. Senti una cosa, io ti posso fare un'altra domanda però, perché già vedo tante telefonate, se ti vale restare con noi mi fa piacere. Io vedo che oggi però nel sito del Cinema Teatro Don Bosco apre subito una locandina, 50 sfumature di attore, che è un corso di recitazione con Pier Maria Cecchini, e che a sua volta fa una pièce teatrale nel vostro teatro, 50 sfumature di Etrusco. Mi viene il sospetto, non può essere tutta una furbata? No, ti tolgo subito ogni dubbio, a te e anche a tanti cittadini di Varazze che hanno pensato che noi possiamo fare i furbi. No, i furbi, è una bella operazione di marketing virale nel marketing, caso. Ma guarda, forse non sono così intelligente. Il Pier Maria Cecchini dalla situazione, questo spettacolo lo sta facendo ormai da un anno, quindi in tempi non sospetti, il titolo era già questo. Punto, fine della trasmissione. Allora resta un attimo, ti faccio ascoltare cosa pensa il pubblico, così interviene anche te. Alfonso, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno, grazie per avermi chiamato. Dica il suo punto di vista. Beh, il mio punto di vista, anch'io non condivido il fatto di avere comunque tolto la programmazione. Poi da un giovane, quando gli si dice di non fare una cosa, ovviamente la fa. Quindi il ritorno sicuramente sarà quello di dire, tanti ragazzi andranno a vederlo dove dovranno vederlo il film. E beh, quale sarà il risultato? Tema che si rovineranno con le loro stesse mani, no? Intrigarli ancora di più. Io ho 52 anni, ricordo molto bene, allora fuori dove che frequentavo io, dovevano, per l'epoca, insomma... E comunque, sempre meglio che dalle frustate che farsi seghe nell'ottica, diciamo, parrocchiale. Non lo so. No, vanno bene tutte e due, secondo me. Vabbè, sentiamo Giuseppe. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Niente, al di là delle carine, insomma, provocazioni, insomma, lanciate anche da lei, insomma, però il mio personale punto di vista è che comunque sia ci sono anche altri posti o altri luoghi dove prendere questo film per chi ne ha voglia di vederlo. Penso che comunque sia nel contesto in cui si trova abbiano ragione sia gli abitanti che comunque sia chi ha tolto dalla programmazione questo film, perché comunque sia non è proprio attinente al luogo e alla formazione. Però è un fenomeno di costume, se ne è parlato tanto, che capiscano come cosa sta succedendo nel mondo. Per me sono strumenti importanti anche per le persone di Varazze. Non è detto che debbano condividerle e poi andare subito, che ne so, al supermercato dei cinesi a comprare le cinture in finto cuoio per divertirsi, ma almeno capire che nel mondo c'è questa sorta di filone letterario erotico, se vogliamo, poco spiegabile per chi non ha questo tipo di pulsioni, però reale, ha venduto fanta miliardi di copie, il film è una ciofeca, ma comunque ne stiamo parlando tanto. Forse manca poi un pezzetto dell'informazione sulla contemporaneità, o no? Ecco, io condivido quello che dice lei, però ovviamente, insomma, in un mondo in cui viviamo oggi, insomma, è bene anche, specialmente per i giovani, insomma, dare anche un altro aspetto a ciò che è il sesso, che non è soltanto finalizzato a un discorso egoistico e basta, no? Diciamo no, che è fatto anche per far piacere agli altri, chiaro. È chiaro. Sì, ma infatti io, a meno che non si sia da tutti, soli, se sempre da due in su il numero cui si fa sesso. Però fermiamoci un istante, ho capito che devo dare il traffico, poi riprendiamo perché il discorso sta diventando interessante anche metafisico. Melog, cronache meridiane. Questi sono molto singolari, non capiresti. Illuminami allora. La sventurata rispose per la gioia di milioni di spettatori che da settimana hanno prenotato un posto per stasera. 2,75 milioni di biglietti sono già stati venduti in 39 paesi, di cui 200.000 solo in Italia, per il film evento in arrivo nei cinema oggi, 50 sfumature di grigio. È oltre questa porta. Che cosa? La mia stanza dei giochi. Ed è intorno a quella stanza che si concentrano le aspettative del film. Chiamano frementi di gioia d'amor Don Bosco, però questa volta Don Bosco, perlomeno i suoi successori, gli impediscono di vedere il giorno di San Valentino in cui festeggiano la loro storia amorosa il film tratto dalla serie romanzesca 50 sfumature di grigio, dove una signora incontra un uomo fantastico, bellissimo, che ce l'ha sempre dritto 80 ore al giorno, che la frusta, la mena, la picchia, lei tutta contenta. Questo sembra che aver colmato una lacuna nell'immaginario erotico femminile mondiale, ma possiamo stare senza avere cognizione di quello che sta accadendo in questa zona chiaroscura della psiche umana? Sì, probabilmente sì, perché i cittadini di Varazze, indignati, hanno scritto a tutte le case generalizie dei salesiani dell'universo, hanno fatto in modo comunque che il film non fosse messo nella programmazione del cinema. Questa sera i fidanzatini di Varazze dovranno vedersi, non so, l'imperatrice Sissi o un cartone animato di Peppa Pig, scusate, ma l'argomento è questo. In realtà il motivo per cui non va visto questo film è proprio per questo, perché i ragazzi si facciano male da soli. Sentiamo cosa dicono i nostri ascoltatori. 800 24 0024. Donata. Sì, intanto io guidando mi è venuto da ridere troppo sentendo questa storia, perché mi sono ricordata di quando ero in collegio dalle suore per fare i primi due anni di università. Che genere di suore erano? Che tipo? Erano, erano suore, oddio, preziosissimo sangue. Vabbè, credo, sangue. Sì. Come erano vestite, bianco o nero? Nero, le peggiori, quelle che danno i pizzichi e i nocchini dietro la testa, sì. Ed era praticamente l'uscita, c'era l'uscita di 9 settimane e mezzo. Ovviamente noi gasatissime chiedemmo per attizzate quella sera, come lupacchiotte, che era. La sala della televisione, senza dire qual era la proiezione. La suora, che era molto più informata di noi, mise un incontro obbligatorio. Che ne sapeva 100.000 volte più di voi, naturalmente. Esatto, l'incontro col prete, neanche a dirlo, andò deserto. Noi barricate nella sala TV, una di noi ebbe il coraggio di uscire per andare al bagno e lì si è imbattuta nella superiora, che disse questa mitica frase: ricordi alle sue compagne che noi ospitiamo collegiali, non bestioline. Beh, voleva l'egemonia delle staffilate e dei giochetti, esatto, erotici sul tavolo di cucina, è chiaro, ecco. Quello era logico, lo sapevo. Per quanto riguarda il film, io quello che voglio dire, il mio parere è questo, e non l'ho ancora visto e non lo vedrò, perché credo che non ci sia niente di più antierotico che fare un film su questo genere di erotismo. Sì, ma l'immaginario generale è molto, molto misero, mi creda. Anzi, credo che l'unica cosa veramente erotica di questa storia è la proiezione del cinema di proiettarlo. Questa, certo, è la cosa veramente erotica. Uno immagina chissà cosa. E io sono però favorevole al fatto che abbiano ritirato il film, perché non sono d'accordo, anche se, come diceva l'altro ascoltatore, siamo nel 2015, non c'è bisogno sempre di sdoganare tutto per forza. Un cinema salesiano rimane un cinema salesiano, e credo che i cittadini possano benissimo vedere questo tripudio di assenza di erotismo in un altro cinema. Grazie Donata. Antonio. Ciao. Niente, è semplice, siamo passati dalla mela alla frusta, cioè praticamente come dicevi come frutto prima, proibito. Sì, no, perché dal film Tempo delle Mele a questo film erotico, cioè tutti si aspettavano sto Tempo delle Mele, Tempo delle Mele, vai al cinema, chiedo scusa là, ma una cagata pazzesca proprio. Sì, me lo hanno scritto molti, come la corazzata Potemkin del cinema erotico. Infatti l'ho visto. Ma anche i libri, onestamente, io ho provato a sfogliare i libri per cui amiche mie andavano in visibilio, sì, ma annoiavo, mai vorrei essere come Mr. Grey, a parte le sue fantastiche capacità di tenuta erotica, però per il resto, cioè, non lo so, noiosissimo. L'unica tenuta erotica era nei festini privati in casa tra ragazzi, quando metteva il pezzo il DJ, era l'unico momento più bello, era la canzone, poi basta. Poi dimentica, quindi il film era fatto fra di noi, così era l'unico momento più bello di socializzare, che ora manca, perché adesso addirittura la tristezza che deve dire su Facebook che ha annullato io li chiami salesiani 3.0. Io ho fatto questa cosa. Vabbè, ma salesiani tutto sommato fanno una bella figura in questa, hanno stoppato una scaturigine del logorante autoerotismo, è sempre stata la loro, diciamo, il fondamento della loro dottrina, evitare che i ragazzi si rovinino con le loro stesse mani. Giacomo da Varazze, finalmente un cittadino di Varazze, lei fra quelli che hanno firmato? Assolutamente no. Mi spiega qual è l'humus cittadino per cui c'è stata una protesta così capillare su una cavolata così? Sarebbe molto interessante, proprio perché io conosco bene l'humus cittadino, sapere effettivamente quanti sono stati i cittadini che hanno fatto questa richiesta, perché come in tutte le città piccole, provincia, spesso alle persone, come invece nelle grandi città, interessa marginalmente certi problemi tipo questo. E di conseguenza la mia domanda è: quali sono i personaggi, quali sono i loro poteri e quali sono, diciamo, le vere motivazioni? Vabbè, Varazze, provincia di Savona, è la patria di Fabio Fazio, è ci passa una sorta di vena di tiepido e moderato attenzione a quelle che sono la contenzione e le pulsioni umane. Io immagino ci sia molto fazzismo in questa cosa. Ma guardi, sì, forse ha ragione, non lo so, però le dico sinceramente e concludo che il cittadino di Varazze possa uscire sinceramente un pochino più impoverito, non perché ha perso il film, ma perché, come al solito, diciamo, la dimostrazione dell'ipocrisia ha regnato. Ma a Varazze, lei che conosce la città, esiste, diciamo, un sottofondo libertino, al di là delle persone che poi vanno a fare le proteste. Ci sarà gente che si vede, che si accoppia, che fa feste, che intriganti legami amorosi ogni giorno sogna o immagina. Ma la risposta è ovvia, certo che sì, come tutte le città, anzi forse la città di provincia, proprio perché si annoia di più, è anche peggio della grande città. Cioè festini, trovo... scambi, queste cose avvengono a Varazze? Ma io penso proprio di sì. Evidentemente. Non nascondiamoci dietro un dito, tutto lì. La mia domanda è questa: chi è che ha chiesto di non farlo? Tutto lì. Ma ci sono prostitute per strada dalle parti di Varazze, solo per capire? No. Però vede, già un segnale c'è di morigeratezza, almeno esteriore. Questo ma vuol dire. Questo io non credo che sia stato problema. Roma è piena, c'è anche il Vaticano. Daniele, buongiorno. Buongiorno. Come la vede? Io la vedo che non conosco naturalmente le motivazioni di quelli che hanno firmato per non avere questo film nella parrocchia. Le loro motivazioni potrebbero anche essere moralistiche, però... non so. Se qualcuno che mi conosce e mi riconosce si metterà a ridere, perché io sono l'ultimo pulpito possibile. Ma in realtà... Perché lei è un libertino famoso, non lo so, io non ho questo... Bene, nel mio piccolo ambito condominiale probabilmente sia... Ah, si fa tutte le vicine di casa? Una visibilità... internazionale, però no, di sicuro è il terrore della Guardiola. Cos'è lei? L'idraulico del condominio? No, stavo scherzando sul fatto che ho un senso morale molto flessibile, molto libero, molto aperto. La devo lasciare, lei ce l'ha flessibile, però la sigla mi dice che non potremo andare oltre nelle sue qualità di amatore condominiale, però ci accontentiamo di quello che ci ha detto. A lunedì.